Beh, ecco, dottore, l'ultimo sogno che ho fatto era molto strano. Ricordo che ero chiuso in una prigione. Le mura erano vecchie, sporche e disastrate. Però c'era un particolare. Fuori dalla cella c'erano degli alberi, c'era il verde. Io volevo uscire da quella prigione, ma delle voci mi tartassavano la mente. Ad un certo punto mi accasciai, chiusi gli occhi e cominciai ad ascoltare quelle voci. Tu hai bisogno di un lavoro stabile. Ora, a pensarci bene, ho almeno sbalzi d'umore, ma credo che dovrò conviverci con questo mio lato.